grazie per la testimonianza, grazie perché ha sottolineato il processo, molto realismo, e grazie anche perché sostanzialmente ha privilegiato esperienze vive piuttosto che artifici di incontri cerimoniali. E con questo concludiamo questo primo incontro, mi dispiace che ormai dobbiamo concludere questo primo incontro, siccome siccome allora daremmo un 10 minuti di tempo di sollievo per poterci anche conoscere meglio, e poi al posto di Fuad noi avevamo già preventivato una comunicazione dell'espertissimo padre Sani, Vasetti Sani, una comunicazione integrativa del discorso di Fuad in termini di islamismo. Quindi nel ritorno noi avremo questa comunicazione, poi programmeremo bene anche gli aspetti logistici del nostro incontro. Nuovamente un grazie allora. Se posso preavvisare a questo riguardo, dunque riprendiamo alle 10:07, no? Cioè, 7:10. Alle 7:10, perché alle 7:30 alla Villa O Santissima viene servita la cena, alle 7:30. Preavviso per domani che c'è una piccola variante, non in peggio, per quanto riguarda il ristorante a mezzogiorno. Alle 12:30 i congressisti sono invitati al ristorante Due Mori, non alla Mora, ma ai Due Mori per pluralismo in via San Marco, no? Lui vuol partire subito, quindi allora well. In sesto Terrini. No, non può lui? No. Proviamoci, si prenderlo? Proviamo a metterci in sesto. Purtroppo non sappiamo per quale motivo nemmeno ha telefonato da Trieste il professor Fuad, per quale motivo non è arrivato. Ad ogni modo, il padre Vasetti Sani aveva già chiesto e noi avevamo concesso lui l'opportunità di fare una breve comunicazione. Penso che quasi tutti conoscono padre Vasetti Sani, un islamologo di lunga data, di grande competenza, che all'interno di altri islamologi rappresenta forse una strada più avventuristica, veneristica, non so cosa dire. In ogni caso, egli con la sua, diremmo, fiducia francescana nel futuro, ma soprattutto nell'intimo dei cuori degli uomini. Abbiamo sentito prima Luzzato che faceva leva sugli occhi del cuore, sulla capacità anche dell'amicizia, è riuscito ad avere una somma competenza in questo ambito di rapporti cristianesimo e di islamismo. E nella sua giovinezza perenne è capace di entusiasmarsi come se fosse ancora veramente un ragazzo. Grazie. Allora dica pure la tematica chiara e poi svolga il suo. No, ma siccome è stato fatto come tema, sì, la possibilità di apertura al pluralismo, eccetera, e per il giudaismo e per l'Islam, io devo sinceramente confessare, dopo più di 50 anni di colloqui con i miei fratelli musulmani, che questo punto è molto difficile, nel senso che il musulmano, per la fede sua nel libro sacro che è il Corano, ha la convinzione che l'Islam, venendo cronologicamente dopo il cristianesimo e quindi anche dopo il giudaismo, supera queste due religioni, anche se le riconosce come religioni venente da Dio, non ha nessuna veduta, nessuna ambizione di venire a colloquio, anche se durante secoli, come diceva, soprattutto durante il periodo degli Abbasidi vero c'è stato uno scambio tra cristiani, musulmani e ebrei, e tuttavia vero, ha sempre questa visione di dover realizzare nel mondo il regno di Dio, che è quello che loro chiamano Dare l'Islam, la casa dell'Islam. Però il mondo è diviso in due parti, Dare l'Islam e Dare l'Harb, la casa dell'Islam, della pace, che sono i paesi già musulmani, e l'altra parte del mondo di popoli che ancora non sono musulmani. Quindi nel fondo di ogni musulmano c'è questo senso della dua, ha il dovere di convertire il mondo. Convertire con quali mezzi, vero? Si può discutere che durante la storia abbiano o no usato il mezzo della spada, o ti fai musulmano o ti ammazzo, perché questo, gli storici diranno quanto c'è di vero e quanto non c'è di vero in questa frase, ma è certo che nel fondo di ogni musulmano rimane questo desiderio. Io dico che anch'io ho il desiderio, vero? Un mio libro che ha passato la censura di un musulmano, questo musulmano ha detto non lo pubblicate perché questo ci vuol fare cristiani. Certo, io sono figlio di San Francesco e credo alle parole del Vangelo, devo per dovere profondo cercare di evangelizzare anche questo mondo. Spero, vero, uscirà una mia pubblicazione, se trovo chi mi aiuta, dal Corano al Vangelo. Come si può partire da tutti quegli elementi positivi che sono nel Corano per aprirli a una visione superiore, qual è quella che ci dà il Vangelo? Quindi per se stesso il musulmano non può accettare di entrare in un pluralismo, sì, per educazione, vero, ma non vede la funzione della sua religione in contatto con le altre religioni per assimilare qualcosa, anche se durante i secoli, vero, c'è stato certamente l'Islam ha assimilato e purtroppo ha assimilato molti aspetti negativi, perché possiamo vedere come dopo il secondo secolo cristiani che si sono fatti musulmani, ebrei che si sono fatti musulmani, hanno cercato di svolgere e interpretare certi testi del Corano sempre in funzione anticristiana. Ora io mi sono proposto di leggere il Corano col senso religioso. Il mio professore Massignon mi ha insegnato un principio: quando sapete che qualcheduno considera un testo come sacro, bisogna mettersi in un senso di sacralità per scoprire profondamente tutto il vero significato religioso che questo testo ha. E sono da molti anni, dal 1947, perché prima ho fatto un anno di studi con Massignon a Parigi e devo confessare ci capivo ben poco, vero? Supponeva che uno aveva già una preparazione della storia dell'Islam, i Kharijiti, non sapevo chi erano i Kharijiti, vero? Ma poi 2 anni a Roma con Monsignor Mulla, un musulmano convertito, mi sono introdotto e poi allo studio dei testi di Massignon. Nel 1947, dopo la guerra, dopo il campo di concentramento, rivedevo Massignon e portai a lui dei testi, perché mi ero convinto, leggendo Marracci, che non c'è altra religione così anticristiana come quella dell'Islam. E allora cercare tutti questi testi del Corano per metterli in rilievo, sono tutti testi anticristiani. Conclusioni: l'Islam è la religione di Satana. Però quando camminavo per le strade del Cairo e vedevo i musulmani in adorazione di Dio, sentivo come un rimorso di coscienza. Se questo poteva in qualche modo soddisfare la mia piccola intelligenza, era un'offesa alla carità dire che questa gente adora Satana. E quando è venuto nel 1947, rivedevo Massignon, gli ho portato alcuni appunti che io avevo fatto sul Corano. Cosa credete di aver detto di nuovo? Tutto il Medioevo ha detto sempre che Maometto è il testimone di Satana. Sant'Agostino ci dice, ci dà un principio: amor dat novos oculos, è l'amore che ci dà nuovi occhi. E San Giovanni dalla Croce ci dice: dove non c'è l'amore, metteteci voi l'amore, scoprirete l'amore con lettera maiuscola. Rifate lo studio del Corano con questo spirito, sicuro che è passato attraverso questa parola l'ombra di Dio, e cercate Dio, vero? e mi sono rimesso di nuovo allo studio del Corano. Quando poi il Concilio Vaticano II, in quel testo del decreto Ad Egentes, dice che bisogna che si studino le tradizioni religiose dei popoli per scoprirvi i semi del Vangelo che Dio nella sua misericordia ha effuso in tutte le religioni. Ora forse non c'è un'altra religione non cristiana, a parte il giudaismo, che abbia tanti semi del Verbo quanti ne ha il Corano. Quindi questa mia rilettura cristiana del Corano, che mi viene contestata, che io offendo i musulmani perché non si può fare altra lettura che quella che fanno i musulmani. Ho fatto un anno di studi rabbinici al Robbs University in Filadelfia e mi sentivo dire dalla mattina alla sera da un rabbino russo: voi cristiani non capite nulla dell'Antico Testamento, è il nostro libro, domandate a noi cosa vuol dire, ma che Cristo nelle parole di Isaia, niente. Allora, d'accordo con la Belle di, mi sono detto: se il Corano è un libro che viene da Dio, e oggi ci sono dei teologi cattolici anche che ammettono questo, vero? La chiave per aprirlo tutto ce l'ha la Chiesa, ma bisogna saperlo leggere. Quindi, come noi leggiamo l'Antico Testamento nella luce di Cristo, se il Corano viene da Dio, come la fede musulmana da secoli dice, ho io anche il dovere di illuminarlo, come dice il Concilio, con la luce di Cristo, e scoprire questi semi del Verbo. Credo di aver scoperto qualche cosa. Nel 1980 io fui invitato al congresso del Corano a Canberra in Australia, dove ho detto due letture: una, il simbolismo cristiano nel Corano, e l'altra, la tipologia cristologica nel Corano. Il pesce, nun, in ebraico, in siriaco, in arabo, vuol dire pesce. E allora, varie volte che nel Corano si allude al pesce, però io interpreto: questo è Cristo. E c'è questa frase nella diciottesima sura, dove si dice che il servo di Mosè ha preso un pesce, lo ha arrossito, e quando viene con Mosè per prendere il pesce rinasce e va nel mare. Christus passus, piscis assus, resurrexite. Dunque, il testo del Corano non è che questo testo latino dei cristiani. E allora c'era lì alla mia conferenza, come chairman, un professore egiziano musulmano, che è professore a Melbourne. Oh, che stupidaggine, dove l'hai cavata, Cristo pesce? Ma perché tu sei ignorante di cose cristiane. Se tu conoscevi qualcosa del cristianesimo, sapevi che i primi cristiani hanno simboleggiato Cristo nel pesce. E così pure la scala di Giacobbe, il segno dello zodiaco, eccetera, tutto questo va reinterpretato come semi del Verbo nella luce di Cristo. Fino ad oggi non è stato messo in rilievo perché questi personaggi dell'Antico Testamento si trovano nel Corano. Se noi guardiamo l'insegnamento che i cristiani tentavano dare agli ebrei, prendendo i tipi profetici dell'Antico Testamento, questi personaggi biblici del Corano sono presentati da Mohammed agli ebrei per prepararli ad accettare Cristo come Messia, in nome di questa figura e di questo tipo che è Noè, che è Mosè, che è Abramo, che è Lot, eccetera. Quindi questa rilettura cristiana del Corano mi mette in rilievo certi aspetti che fino ad oggi il musulmano non ha visto. Ho io il dovere di aiutare il musulmano a scoprire questo senso profondo che sono i semi del Vangelo, del Verbo nel Corano. A me mi si rimprovera, da anche autorità del mondo cattolico, non solo di fare una lettura che non si può fare. Allora i musulmani devono fare una lettura coranica del Vangelo, ma che la facciano, poi vediamo le loro conclusioni. Non è lo stesso, vero? Ma non offendo Noi cristiani offendiamo gli ebrei perché facciamo la rilettura cristiana dell'Antico Testamento? Allora è lo stesso parallelo. Se il Corano è un libro che viene da Dio, e sono arrivato alla conclusione, questo non chiude, vero? Non è per noi, perché la rivelazione della Sacra Scrittura non mette il Corano, ma è per una parte dell'umanità che ancora non è preparata al Vangelo. Quindi l'Islam si è sparso nell'estremo oriente, si ha distrutto le chiese cristiane, bisogna dire che questi cristiani non hanno resistito a una tentazione, è una tentazione fino ad oggi, però ci sono anche in Italia dei cristiani tentati di farsi musulmani, è un po' più facile, ma ha portato nelle masse hindu, nelle masse buddiste, i primi elementi della rivelazione cristiana, ha portato prima di tutto il concetto che è il Dio di Abramo, di Mosè e di Gesù, dice il Corano, che parla all'uomo. Ora, anche nella concezione dei libri sacri dall'Estremo Oriente non c'è un concetto di una rivelazione che Dio personale parla all'uomo. Quindi l'Islam porta il concetto della rivelazione biblica, porta il concetto del mondo dell'aldilà. Non è la ruota che gira. Oggi io sono un uomo, domani posso essere un somaro o un cane o un cavallo, ma io sono destinato all'eternità. Porta il senso del giudizio, paradiso, inferno, porta soprattutto l'iniziale conoscenza del mistero di Cristo attraverso Maria. Nella prima parte del Corano, la predicazione della Mecca, la figura di Maria è più delineata che quella di Cristo. Poi sarà nella seconda parte, nella predicazione a Medina, dove tutta l'evoluzione della presentazione del mistero di Cristo è graduale, fino alla conclusione, alla quinta sura, che è la sura di chi è Dio, chi è Gesù, vero? Allora c'è la Trinità che è rimproverata dagli ebrei ai cristiani, è composta da Allah che prende una moglie che si chiama Ruh al-Qudus, Spirito Santo, perché Spirito Santo anche in ebraico, in arabo, è femminile, non è neutro. E quindi anche San Giovanni, San Girolamo dicevano, c'erano dei cristiani che riconoscevano Spiritus Sanctus Mater Dei. Quindi il nome che i cristiani davano a Maria, madre di Dio, ovvero era intrapreso in questo, interpretato in questo senso dagli ebrei che dicevano ai cristiani che Dio non prende moglie e fa un figlio, si chiama Gesù Cristo. Allora il Dio al giudizio universale domanda a Cristo: è vero che tu hai insegnato agli uomini di prendere te e Maria come due dei accanto a me? Gesù risponde: tu sai quello che io ho insegnato. Termina il Corano, perché la rivelazione suprema del mistero di Cristo sarà fatta all'ultimo giorno. Ecco per cui io dico al musulmano: non dire che Cristo non è il figlio di Dio, ancora non ci sei arrivato, la rivelazione a te non è arrivata di questo mistero, a me è arrivata e io devo approfittarlo, vero? Quindi aspetta, aspetta. E anche una sura si chiama di attesa, questo eco di attendi, attendi, attendi che cosa? Attendi la suprema manifestazione di Cristo come figlio di Dio. Ora, noi dobbiamo lavorare per questo, non possiamo dire i musulmani sono inconvertibili, ma come, la grazia di Dio non può trasformarli? Siamo noi che non facciamo attualmente. Chi durante i secoli ha fatto veramente un'azione per evangelizzare i musulmani? I miei confratelli entravano nelle moschee e dicevano: oh, se voi non vi fate cristiani andate all'inferno come il vostro profeta, nel fondo dell'inferno. Chiudere la porta al cuore di ogni musulmano, offendere il profeta, e non avevano capito che non si poteva iniziare così l'evangelizzazione, tanto che San Francesco nella prima regola aveva detto: non facciano telites, non facciano discussioni, quando poi verrà il tempo predicheranno il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo e battezzeranno. Ora c'è questo tempo di testimonianza, anche io non sento altro che mormorare, vedete questa invasione di questi arabi, di questi marocchini qui, cosa... forse il Dio li manda perché gli italiani riscoprano il primo comandamento. Anch'io torno dopo tanti anni fatto all'estero, vero? E un mio amico musulmano mi diceva, io ho studiato in Italia, l'Islam è la religione degli uomini, vai alla moschea a vedere quanti uomini sono a pregare. E il cristianesimo è la religione delle donne. Io in Italia non ho visto che donne nelle chiese e vecchie. Ed era convinto, noi abbiamo dato questa dimostrazione. Quindi Dio forse ce li manda perché noi riscopriamo il valore della nostra fede cristiana e, dando il buon esempio, adorare il Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima. Io confesso, ero già frate da 10 anni, ma ho scoperto il senso più profondo cosa vuol dire adorare Dio, vedendo adorare Dio dai musulmani. E quindi vi invito a avere questa simpatia che deve essere il frutto della nostra carità. Tutti i giorni io sento, si legge, Signore, fai che io riconosca in tutti gli uomini l'immagine tua, ma difficilmente sento anche dei confratelli che sono pronti a riconoscere in questi marocchini che vengono a chiedere il pane alla porta del convento l'immagine di Cristo. Sia lodato Gesù. Bene. Quello che importa è che la sua testimonianza lui l'ha verificata a contatto con gli amici musulmani. Quindi uno potrebbe dire, ma tu qui dentro parli in assenza di loro, su di loro, espropriandoli, sono, ecco, interpretazioni che hanno una loro valenza interna alla Chiesa, però lui le ha sempre verificate con gli amici suoi, quindi anche sottoponendosi alle loro osservazioni critiche, no? È chiaro. Dunque, lo ringraziamo di questa testimonianza. E se volete fargli qualche altra domanda, comunque io sono preoccupato anzitutto della struttura della serata. Dunque ci dicono che per le 7:30, possiamo partire anche da qui, le 7:30 io dico, fra 10 minuti, siccome alcuni non hanno macchina, non sanno come andare su, organizziamoci in fraternità, perché coloro che hanno macchine con posti liberi siano disponibili a caricare per portare su alla cena coloro che appunto non sono. E poi ricordiamoci che lì ci stiamo solo stanotte praticamente, con la colazione di domani mattina, perché domani il pranzo si fa in città, quindi coloro che prevedono di restare qui fino al pomeriggio eccetera, è meglio che prevedano anche di portarsi con sé tutta la roba che hanno su nelle stanzette. Domani, per coloro che vogliono celebrare la Santa Messa come gli altri anni, lì ci sarà la possibilità di una Santa Messa, dunque possiamo già adesso organizzarci, io direi le 7:30, ecco, la messa, in modo che alle 8:15 al massimo si possa fare la colazione e alle 9 essere puntuali qui. Per vediamo un po', questo mi sembrava l'unica cosa da dire. Se ci sono delle domande. Ecco, sì. Adesso potete magari un 10 minuti, ecco, fare qualche domanda al professor Rettisani, se volete. Forza. Volevo chiedere, il problema dei giudei cristiani che sono confluiti nei musulmani, come si mostrarsi? Padre Testa, Padre Testa è la tesi che ha portato avanti. Cioè l'interpretazione della Trinità che lei diceva era proprio dei giudei cristiani, se non sbaglio. Era degli ebrei, sì, ma io non vedo questa influenza dei giudei cristiani su Mohammed, perché questi ebrei di Mecca e di Medina, secondo me, sono ebrei rimasti isolati dall'altro ebraismo, sono il falascia dell'Abissinia, vero? Alcuni sono andati in Abissinia dall'Arabia, non dall'Egitto, perché io ho fatto il deserto, a mandare tutta questa gente attraverso il deserto dall'Egitto fino in Abissinia, quanta gente moriva per la strada. Sì, invece sì. È più probabile che questi falascia siano venuti dall'Arabia. E qui in Arabia c'era una tradizione che è stata rimessa su da un ebreo il secolo scorso, non sempre accettata, che il tempio della Mecca sia stato organizzato e costruito dagli ebrei di questa immigrazione, i quali hanno voluto ricostruire in qualche modo un ricordo del Tempio di Gerusalemme. Poi, vero, queste tribù ebraiche si sono arabizzate, alcune sono degli agricoltori in Medina e altri sono dei banchieri in Mecca, vero? Quindi l'influenza dei giudeo-cristiani io non ce la vedo. È la tesi di Padre Testa, l'ha tirata fuori Testa. Sì, scritta anche un, in testa un bel volume. Beh, grazie. Terrin. Io scrivendo l'articolo sul dialogo tra le religioni, per Jesus, ho dovuto scrivere anche sui testimoni del dialogo nel rapporto tra Islam e cristianesimo. Naturalmente dal punto di vista cristiano era abbastanza facile, padre Massignon eccetera, ho trovato padre Basettisani che ha citato eccetera, però dal punto di vista musulmano è molto difficile, e addirittura anche in Africa, dove è anche in Asia, in veramente succede questo, che i musulmani attendono molto dai cristiani, che i cristiani dialoghino con loro, però loro veramente fanno difficoltà a muoversi. Ora, io credo che qui sotto ci sia un problema forse di cultura, cioè si trovano in una situazione culturale forse che non è ancora di apertura come la nostra, probabilmente. No, io credo che proprio teologia. Non c'è una teologia elaborata e avanzata che cerchi di, forse è, questo è altro. È questa sicurezza che dà loro il Corano, che il Corano basta. Ma anche noi abbiamo la sicurezza che Cristo basta? Sì, ma noi siamo più aperti. Come? Noi siamo più aperti. Ma questo è il problema, come succede allora che noi siamo più aperti e loro no? Perché anche noi abbiamo le nostre sicurezze. Noi non abbiamo mai preso, diciamo, come prendono i musulmani ad litteram il Corano. Io vedo, quando parlo con un musulmano e entro in un argomento, mi cita un testo del Corano che non ha niente a che fare dal contesto, ma loro sono abituati in questo, ancora non c'è introdotto, ecco, non c'è introdotto un senso critico, vero? Perché i testi, no, il libro, forse una rielaborazione teologica che invece l'Occidente è andata via via. Sì. Però probabilmente allora questa sarà la sfida di 50-100 anni fa, dove anche l'Islam sarà costretto, a contatto con culture diverse, sarà costretto a fare una teologia dell'Islam, probabilmente, o no? Io vedo quello che è successo, Arkun, da che è a Parigi, ha cambiato un po' le sue situazioni, è stato influenzato da un ambiente positivista, diciamo, vero? Quello che io rimprovero ai musulmani da una parte e ai cristiani dall'altra, che non c'è stata una comprensione vicendevole. Quando io vedo i grandi musulmani che il secolo scorso sono venuti in Europa, sono andati a incontrare Renan e tutta gente anticristiana, da cui hanno preso tutto questo spirito anticristiano aumentando quello che già avevano, vero? Ma è un po' anche colpa nostra che non abbiamo fatto uno sforzo per avvicinarli e per cominciare a parlare. L'unico posto in cui c'è un po' di dialogo è la Tunisia. I padri bianchi sono arrivati a delle conclusioni, poi c'è questo gruppo di musulmani e cristiani, e l'India, a New Delhi, padre Troll, gesuita, vero, ha buoni contatti con i musulmani. Io sono stato 3 volte in India a questi dialoghi cristiani e musulmani, ho trovato un mondo musulmano molto più aperto che il mondo arabo. Lì c'era un musulmano convertito, vescovo metodista, che nelle discussioni si alzava, diceva un testo del Corano in arabo, poi apriva il San Paolo, dice questo e questo. Ora tutti lo rispettavano, al Cairo il giorno dopo lo avrebbero ammazzato, no? Perché la ridda vuole che un apostato sia ammazzato. Quindi ancora c'è da lavorare in questo senso. Questo solamente attraverso un'amicizia personale. Nella massa non dice nulla, vero? Non posso andare io al Cairo a discutere con un gruppo di musulmani, devo cercare tizio Cairo più aperto. Comunque teniamo conto dell'idea di prima, processo. Non vogliamo inaugurare un metodo che voglia tecnicamente avere effetti visibili da noi. Bisogna seminare e costruire per un futuro. Ad ogni modo, volevo anche richiamare un tema di prima per questo discorso, cioè vediamo se è verificabile l'ipotesi di prima. Se noi facciamo subito frizionare tra di loro, in questo pluralismo religioso, le religioni in quanto tali, e non in riferimento a problemi che li trascendono o perché sono più alti o perché sono più umani, probabilmente non riusciremmo in questo momento. Io in mente, per esempio, per riprendere il discorso di prima, non solo quello di Seul, ma in generale, pensate la novità, diremmo teologica, l'abbiamo studiato noi a Padova in seminario, delle carte dei diritti dell'uomo, sulle quali ormai la Santa Sede, e diremmo dalla Pacem in Terris, tanto insistiamo. Bene, le carte dei diritti dell'uomo, che sono un riferimento, se volete, all'etica, ma in un'ottica molto mondiale, molto ampia, trascendente, ha trovato la possibilità che ad esse convergano rappresentanti di religioni diverse, e perfino i musulmani hanno elaborato una carta dei diritti dell'uomo che è confrontabile con le altre. Forse solamente c'è stato questo, vero? Loro hanno scritto in arabo, dove l'uomo è sempre il muslim, il musulmano. Nella traduzione francese e inglese è man, è l'uomo o l'homme. Quindi c'è questa ambiguità che hanno voluto mantenere. Ma quella tradotta in italiano è questa, secondo lei? Non l'ho visto, cioè, italiano, io ho visto quella francese. È stata tradotta, messa in un numero di alcuni anni fa, o fra due anni fa, tre, del Regno Documenti. Ah, perché l'hanno tradotta in inglese e in francese, e allora è i padri bianchi nell'islamo cristiana. In musulmano, in arabo sarebbe come? Musulmano. Il musulmano sarebbe? Il diritto del musulmano. No, ma è la carta dei diritti dell'uomo. Dei diritti del musulmano. È la stessa. L'ambiguità allora sarebbe? Sì, nella parola, non c'è l'uomo. Però loro hanno inteso dare un contributo con quella carta al processo mondiale di oggi. Bene. Sì, va bene. Accennato una prefigurazione dell'incarnazione in un discorso dell'angelo. Una volta. No, il peccato degli angeli nel Corano viene ricordato 7 volte, anche il 7 è un simbolismo cristiano. Ed è detto che Dio ha presentato agli angeli Adamo perché lo adorino. Allora Adamo, gli angeli rifiutano una parte perché Adamo dice è un uomo fatto di terra, noi siamo fatti di fuoco. Ora, nella tradizione rabbinica, fino al III secolo prima di Cristo, si è sempre inteso Adamo, l'Adamo marito di Eva. Nel terzo secolo alcuni rabbini dicono no, è il prossimo futuro Messia, quindi non è Adamo, ma è l'Adamo, il vero Adamo, Cristo. Nella chiesa siriaca il peccato degli angeli è il rinunzio a riconoscere Cristo. Nessuno va al Padre se non passa di me. E questa è la tesi che poi ha accettato la scuola francescana, vero? Gli angeli hanno peccato perché hanno rifiutato Cristo, quindi il loro peccato non ha remissione, loro negano il principio della grazia. E questo, io reinterpreto questo testo del Corano, è un testo cristologico. Quando poi dopo parla di Adamo ed Eva nel giardino che hanno peccato, c'è prima la condanna in duale, e Dio manda via Adamo ed Eva, poi c'è la condanna al plurale. L'arabo ha il duale e il plurale. Ora, questa è la condanna, il peccato originale, vero? Fino a che non verrà l'Uda che rimetterà gli uomini in pace con Dio. Ora, i musulmani vedono Uda, la guida, il Corano. Io dico, no, questo è un testo che ricorda il proto-Vangelo. Quindi bisogna aiutare il musulmano a dire, questo Uda chi è? La guida è Cristo. La Magdi Illahiso, ha detto Hassan Basri, non c'è guida se non Cristo, è un grande mistico, vero? Quindi io sono autorizzato, in base a questa interpretazione che dà un musulmano, ogni volta che trovo Uda o Magdi nel Corano, è Cristo. Bene, dunque ringraziamo padre Basetti di questa sua testimonianza. Ricordiamo che l'Istituto di Scienze Religiose di Trento l'ha accolto, questo padre, il quale appunto veniva giudicato arbitrario, fantastico, è un pioniere, un esploratore, come abbiamo esaltato prima l'esperienza di Neve Shalom, che è importantissima, dobbiamo anche, direi, adoperando, poi ricorrendo alla testimonianza di uomini che forse vengono accusati di fantasie, ecco, dobbiamo veramente essere riconoscenti a questi esploratori, perché il futuro si costruisce anche così, con queste piste orme che magari sembrano divaricanti in un primo momento, ma magari ne avessimo tanti che studiano il Corano dal punto di vista cristiano, per sollecitare, come direbbe San Paolo, la gelosia dei musulmani perché interpretino eventualmente i testi anche evangelici, come no. E allora il futuro si metterà in moto secondo una prospettiva messianica, io intendo. Ecco. Allora, grazie. Allora, le auto con i guidatori disponibili. Quanti sono, non importa, si arrangono o no, imbarazzati a raggiungere la Villa o Santissima? O si sono tutti aggiustati con qualcuno che li ospita in macchina? Quanti sono in difficoltà per portarsi alla Villa o Santissima? Ecco, si facciano avanti che in qualche maniera cercheremo di...